Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Fabio Genovesi, autore di Versilia Rock City, pubblicato da Mondadori. Avevamo già sentito Genovesi quando nel 2011 aveva pubblicato un altro romanzo, Esche Vive. E in realtà Versilia Rock City è una sorta di remake, possiamo dire così, in modo cinematografico, di un libro che aveva pubblicato nel 2008 per una piccola casa editrice, Transeuropa. Quindi all'inizio avevo deciso, insomma, di non prenderlo tanto in considerazione. Poi ho incontrato Genovesi a un festival molto bello che vi consiglio, un festival letterario di Cremona che si chiama Le corde dell'anima, e l'ho sentito parlare di questo libro sul palco. Ho riso così tanto dall'inizio alla fine che ho detto: se il libro mi farà ridere altrettanto, questo sarà il compagno di almeno due o tre serate estive. E allora ho detto: Fabio Genovesi, devi assolutamente tornare al cacciatore di libri. E Fabio Genovesi è qui, come direbbero i conduttori quelli bravi. Allora Fabio, innanzitutto, come mai hai deciso di fare questo remake? È stata una scelta commerciale, per dire, insomma, adesso sei diventato uno scrittore famoso, quindi ripubblichiamo anche le cose vecchie, oppure ci hai lavorato su, insomma, veramente? La scelta è stata fatta dall'editore, al quale Versilia Rock City piaceva, hanno preso i diritti e hanno deciso di farlo riuscire. Poi mi hanno fatto la fatidica domanda, che è il sogno e l'incubo di ogni autore, cioè: se vuoi puoi rimetterci le mani. Io ho detto: è terribile, vabbè. Gli autori non vogliono mai rimettere le mani su quello che hanno fatto. Infatti, anche perché se lo fai succede come è successo a me, cioè nella mia mente era: toccherò un paio di virgole, rivedrò due punti, e l'ho riscritto invece completamente. Ci sono due, tre capitoli in più, molti capitoli hanno un paio di pagine aggiuntive, proprio perché erano passati 4 anni e nello scrivere è come, secondo me, se ti invitassero a una festa molto bella a cui hai partecipato negli anni 80, ti invitano adesso e dici: però non mi posso vestire come ero vestito, no? Ero capelli cotonati, spalline gonfie. È un lavoro di sartoria che fai sia per la festa che per la scrittura, e quindi così ho fatto, è venuto fuori un libro abbastanza diverso. Anche perché, insomma, nel frattempo eri anche cresciuto, eri maturato, avevi già pubblicato Esche Vive, quindi lavorando anche con gli editor si impara tanto poi a scrivere un libro fatto e finito, insomma. Sì, sia proprio il senso, rileggendolo, lì per lì avrò spaesato, perché c'erano alcuni punti in cui proprio dicevo: non riesco a capire come non avevo capito all'epoca, come è potuto succedere, e quindi trovavo degli spazi grandi nel libro che erano migliorabili, perfettibili. Mi sembra un reato non migliorare quello che vedi come può essere migliorato, e quindi così ho cercato di fare. Allora, Versilia Rock City possiamo definirlo un romanzo tragicomico, nel senso, vi dicevo prima, si ride molto, ma ci sono anche delle cose, insomma, drammatiche. È ambientato in Versilia, come dice il titolo, ma d'inverno, insomma, non la Versilia che conosciamo un po' tutti, almeno quelli che se la possono permettere, diciamo così, Forte dei Marmi e dintorni, ma l'hai ambientato in Versilia in inverno. Perché? Perché la Versilia è una terra, Forte dei Marmi soprattutto, dove è ambientato il romanzo, che tutti credono di conoscere, perché comunque ci hanno passato qualche estate o hanno un amico che ci andava, l'hanno vista in televisione. In realtà si conosce quel paio di mesi estivi in cui il paese è completamente diverso. Forte dei Marmi in estate è Las Vegas, il resto dell'anno è Bucarest o la Transilvania. Io ci sono nato e ho vissuto per tanti anni i lunghi inverni versiliesi, che erano quanto di più distante ci potesse essere dal vippismo estivo. E mi sembrava assurdo che ci fossero così tanti libri scritti o memorie o film che parlavano di quella Forte dei Marmi, che sono 2 mesi l'anno, e che degli altri 10 nessuno avesse mai cantato le lodi. Allora hai deciso di scriverlo tu. Sì. Che cosa si fa a Forte dei Marmi d'inverno? Un ragazzo che cosa fa? Cose costruttive, davvero bisogna tener conto che non succede assolutamente nulla, le attività commerciali, bar e ristoranti sono quasi tutti chiusi, quindi molte case sono vuote perché sono di persone, una volta, adesso russi, all'epoca di Parma, Milano, e quindi non è un piccolo paese, ma è un paese vuoto in un certo senso, adesso poi ancora più di prima, e quindi il giovane muore dalla voglia di un po' di vita, e organizzavamo e ancora si organizzano piacevoli passatempi come le corse nei cassonetti, quindi prendevi i cassonetti, ognuno entrava nel suo e poi ci si lanciava su per la discesa dell'immondizia. Cassonetti dell'immondizia, che infatti adesso sono incatenati di solito a Forte per evitare questa cosa. Colpa di Fabio Genovesi, lo dichiariamo. Anche, non solo, ma anche. E quindi tutti i passatempi erano favolosi. C'è la genialità, secondo me, nasce anche da questo. Se a Roma, a Milano, tu dici voglio ballare, voglio suonare, esistono molte scuole, molti circoli dove puoi provare a farlo e ti insegnano. E la cosa è molto utile, ma al tempo stesso ti inseriscono in un solco già tracciato. In quei tipi di posti la follia predomina, perché voglio ballare e balli magari da solo a casa. Nel 99% dei casi viene fuori una persona che poi viene internata, nell'1% viene fuori un genio del ballo, insomma. E quindi, ecco, posti come quello secondo me sono condannati all'unicità, nel bene e spesso anche nel male. Che poi, insomma, Forte dei Marmi vuol dire anche tanti altri paesi, insomma, che vivono solo d'estate e poi d'inverno muoiono completamente. Certo. I personaggi del tuo romanzo sono quattro. Allora, cerchiamo di descriverli un po' rapidamente. Marius è un ex DJ che ha una caratteristica: non esce mai di casa. Da 3 anni si è chiuso in casa. E tornato da una serata, sono successe delle cose che si scopriranno solo alla fine, e decide di non uscire più di casa. Però ovviamente vive su internet e grazie alla grande quantità di film, diciamo a tinte forte, che vede, salva la vita a una pornostar, perché la vede nuda in molte scene e vede un neo che non gli piace, quindi le manda una mail, riesce a salvargli la vita. E da lì nasce tutta una storia d'amore fra mille virgolette. Poi c'è Nello, suo zio, ex, quella che lui definisce una breve parentesi problematica, cioè 20 anni di dipendenza dall'eroina. Tutto il paese lo odia perché in questi 20 anni ha fatto di tutto per farsi odiare, ma lui è convinto di essere l'unico corretto, l'uomo ricco di morale dentro il paese, e si comporta come il mondo fosse il suo regno. E tu riesci a far ridere anche su un personaggio così che si fa di eroina? Sì, cioè, cerco, anche se la cosa che più mi affascina è proprio quella di far ridere di ciò che non dovrebbe farci ridere. Certo. Sul dramma e sulle cose. Anch'io amo moltissimo appunto l'ironia e ridere sulle cose che purtroppo ci farebbero piangere. Sì. Poi c'è una donna, Roberta. Roberta è il personaggio femminile più forte e anche la persona più civilizzata, direi, di tutto lei. Inserita nella società, ha un lavoro, è un'avvocatessa di successo, rispettata, frequentata dall'alta società versiliese. E però è arrivata a questa età, che è poco oltre i 40, ha questa paura grandissima in petto, cioè di essere una donna fredda. Tutti glielo dicono per farle un complimento, per il fatto che ha grande successo nell'attività, però lei comincia a sentire questo come un limite e non essere più una donna in grado di provare grandi passioni, e come spesso succede quando una donna ha questa paura, si butta nelle azioni più folli, scegliendo l'uomo più sbagliato e più lontano da lei, in questo caso proprio Nello, quindi la persona più lontana da lei in tutti i sensi, e ne usciranno entrambi impareranno qualcosa, però spesso si impara dalle botte più che dalle lezioni e serie. Poi c'è Renato invece. Renato che fa? Renato è quello di Forte dei Marmi che va a vivere a Milano, perché Renato è il classico uomo che le donne hanno l'incubo di conoscere, perché è viziatissimo dalla madre, che gli ha fatto credere che tutto lui è destinato a grandissime cose, se non succedono è perché gli altri sono invidiosi. Deluso dal fatto che la fidanzata l'ha lasciato per andare con un altro, non può resistere a questa vergogna, se ne va dal paese e va a vivere a Milano, dove, non avendo né arte né parte, si inventa una professione che però va benissimo, e cioè ha letto sul giornale, come succede effettivamente, che molte persone in questo tempo di crisi quanto mai attuale fingono di andare via, ma durante le vacanze si chiudono con le tapparelle in casa, e lui organizza un'agenzia di viaggi per persone che vogliono far finta di viaggiare. Quindi questi si chiudono in casa, lui per 2 settimane si presenta, gli porta il mangiare, il bere, i DVD, li assiste, li informa su questi posti che in teoria dovrebbero aver visto e che poi gli amici dovranno più o meno raccontare, e la cosa gli sfugge di mano e diventa un lavoro veramente a tempo pieno. Però poi ci sarà un problema con un viaggio andato male e una ragazza di cui si innamorerà. Senti, quando raccontavi, ti sentivo parlare appunto di questo libro, raccontavi anche il momento dell'estate appunto a Forte dei Marmi, tu bambino che vedi arrivare il bambino milanese, e lì, come dire, c'è lo scatto di diversità fra il bambino che vive tutto l'anno a Forte dei Marmi e quello che ci viene solo in vacanza. Sì, due mondi diversissimi. Spesso si dice il problema dei ragazzi è che vedono la televisione, vedono dei modelli inarrivabili e credono che la vita sia quella, gli fa male. In Versilia, a Forte dei Marmi, non c'era nemmeno bisogno di guardare la televisione, bastava guardare di là dalla siepe, perché io vivevo, come tutti, affittava la mia famiglia quando ero piccolo, e voleva dire dare la tua casetta ai signori, noi li chiamavamo signori per indicare proprio la distanza medievale che ci separava da loro. E andavamo a vivere, io avevo una lussuosa casetta fatta di canniccio come mura e Eternit come soffitto. Ah beh, però. Questa era proprio la nostra casa dell'estate. E di là dalla siepe, vivendo in questa condizione, di là dalla siepe c'era la villa con piscina di un bambino che aveva la piscina e un pony che girava libero. E capisci al volo che nella vita ci sono delle grandi differenze, che probabilmente sei nato dalla parte sbagliata. Siete nato dalla parte dell'Eternit. Sì, esatto. Grazie allora a Fabio Genovesi, autore di Versilia Rock City, un libro che vi farà veramente ridere e sorridere, pubblicato da Mondadori. Io prima di chiudere vi ricordo che se volete partecipare con noi alla serata finale dello Strega, quella del 5 luglio per intenderci, potete venire proprio con me fisicamente al Ninfeo di Villa Giulia se scrivete praticamente su www.radio24.it qual è lo scrittore che secondo voi dovrebbe vincere lo Strega. E poi invece, se volete diventare dei giallisti, potete scrivere dei piccoli gialli che andranno in onda a luglio su Radio 24 e che invece verranno pubblicati su un'antologia dei gialli Mondadori. Anche in questo caso trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.